Effetto notte, le notizie in 60 minuti. La crisi catalana ha ordinato la detenzione provvisoria del vicepresidente Junqueras e di 7 ministri del governo catalano destituito. Il presidente Puigdemont resta in Belgio e contro di lui arriva un mandato d'arresto internazionale. Il governo legittimo della Catalogna è incarcerato per le sue idee, per essere stato fedele al mandato approvato dal Parlamento catalano, commenta Puigdemont. Migliaia di persone scendono di nuovo in piazza. Il presidente americano Trump nomina Jerome Powell alla guida della Fed al posto di Janet Yellen. Powell è forte, intelligente e talentuoso, dice Trump. Ha la leadership per guidare la nostra economia in ogni eventuale sfida. Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma delle intercettazioni. Il premier Gentiloni assicura: non limitiamo l'uso delle intercettazioni, ma contrastiamo l'abuso. Il ministro Orlando chiarisce: abbiamo messo una serie di vincoli che non restringono la capacità di indagine, ma riducono il rischio della fuga di notizie che non siano legate a fatti penalmente rilevanti. Verso il voto di domenica in Sicilia, Silvio Berlusconi a cena a Catania con il leader della Lega Matteo Salvini e quella dei Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Intanto il 5 Stelle Di Maio invita Renzi ad un incontro TV dopo le elezioni. Renzi accetta la sfida. Vediamoci già martedì 7 novembre, dice. La RAI propone uno spazio dopo il TG1, si fa avanti anche la 7. L'incontro governo-sindacati sulle pensioni. I sindacati chiedono il blocco dell'automatismo sull'aumento dell'età pensionabile. Il governo si dice disposto a parlarne per i lavori usuranti in un tavolo tecnico il 13 novembre, ma senza intaccare la sostenibilità del sistema previdenziale. Il tavolo tecnico non ferma l'iniziativa del sindacato, fa sapere dopo l'incontro la leader della CGIL, Susanna Camusso. Lo scandalo molesti e sessuali in Gran Bretagna. Dopo le dimissioni di Michael Fallon, il nuovo ministro della difesa è Gavin Williamson. Ma secondo i media britannici scricchiola anche la poltrona del numero 2 del governo britannico, Damian Green, dopo le accuse arrivategli da una 31enne attivista Tory. E una giovane donna accusa di violenze sessuali il primario ginecologo palermitano Biagio Adile. La donna avrebbe subito un primo abuso nello studio privato del medico e alla seconda visita, questa volta in ospedale, avrebbe registrato tutto con il cellulare. E poi il calcio con la serata di Europa League. AEK Atene-Milan finisce 0-0, Apollon-Atalanta 1-1. In questi minuti in campo Lazio-Nizza. Di tutti questi argomenti parleremo questa sera in Effetto Notte. Un saluto da Maria Piera Ceci. Questa settimana Roberta Giordano è in vacanza, la ritroverete lunedì. E allora cominciamo con la nostra carrellata di notizie. Ripartiamo questa sera dalla Spagna perché migliaia di persone sono scese in piazza in tutte le città catalane all'appello delle organizzazioni della società civile indipendentista per denunciare l'arresto ordinato da un giudice spagnola di 8 membri del governo di Puigdemont, che twitta: il governo legittimo della Catalogna incarcerato per le sue idee e per essere stato fedele al mandato approvato dal Parlamento catalano. Il giudice dell'Audiencia Nazionale Carmen Lamela ha accolto questo pomeriggio la richiesta della procura, decretando l'ingresso in carcere per 7 consiglieri del destituito governo catalano e per l'ex vicepresidente Oriol Junqueras. Una misura cautelare adottata sulla base di un alto rischio di distruzione delle prove e di fuga da parte degli imputati, secondo quanto disposto dal giudice, che ha fatto esplicito riferimento alla presenza in Belgio dell'ex presidente Puigdemont e di altri 4 consiglieri per giustificare in parte la decisione presa. Nei confronti dell'ex numero 1 della Generalitat e dei suoi 4 fedelissimi, l'Audienza Nazionale ha però spiccato un ordine di cattura internazionale. Soltanto nei confronti dell'ex consigliere Santivila, unico ad essersi dimesso prima della dichiarazione di indipendenza, non è stato disposto l'arresto a fronte del versamento di una cauzione da 50.000 euro. Il Tribunale Supremo ha invece rinviato la prossima settimana agli interrogatori del presidente del Parlamento catalano, Carme Forcadell, e di altri 5 membri della stessa istituzione, disponendo però che vengano messi sotto sorveglianza da parte della polizia. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona. E torneremo a parlare di Spagna nel nostro approfondimento nella seconda parte di Effetto Notte, ora invece in Italia con la riforma delle intercettazioni. Non limitiamo l'uso, ma ne contrastiamo l'abuso. Sintetizza così il premier Gentiloni il cuore della riforma approvata oggi. Obiettivo: regolamentare in maniera più stringente l'utilizzo delle intercettazioni per evitare che conversazioni non rilevanti ai fini delle indagini possano finire negli atti processuali e di lì sui giornali. In nessun modo vogliamo limitare la possibilità di disporre di questo strumento per la magistratura. Al tempo stesso è evidente che in questi anni ci sono stati frequenti abusi. Il testo introduce vincoli alla trascrizione delle conversazioni nelle richieste dei PM e nelle ordinanze dei giudici, limitato poi l'uso dei Trojan, ossia i captatori informatici, istituito presso l'ufficio del PM un archivio riservato delle intercettazioni, la cui direzione e sorveglianza sono affidate al procuratore della Repubblica e il cui accesso sarà consentito solo ai giudici, difensori e ausiliari autorizzati dal PM. Sostanzialmente positivo il commento dell'Associazione Nazionale Magistrati. Lo sforzo è apprezzabile, dice il presidente Eugenio Albamonte. Non piace invece il limite all'uso del Trojan. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ancora politica, in questi minuti l'incontro a cena fra i leader del centrodestra, Berlusconi, Salvini e Meloni in Sicilia, a pochi giorni dal voto per le regionali. Le elezioni in Sicilia sono sempre più un test nazionale, almeno così vengono viste dalle forze politiche. Il centrodestra si riunisce a Catania e i tre leader, Berlusconi, Salvini e Meloni, si vedono a cena anche per parlare delle politiche. Nel pomeriggio il comizio di Berlusconi che attacca il Movimento 5 Stelle. Gli angioini, gli aragonesi e poi i Savoia, quello che mi domandavo io venendo qui. Ma non è che dopo tutte queste nobili dominazioni volete arrivare a farvi dominare da un certo grillo dei 5 Stelle? L'ex cavaliere si sbilancia poi sulle politiche. C'è un accordo per programma e ministri, ma Salvini frena. Per il leader della Lega non si deve parlare di poltrone. Altra questione è la sfida di Luigi Di Maio a Matteo Renzi. In un confronto TV dopo il 5 novembre, il segretario PD ci sta, ci vediamo martedì e decidiamo dove. Ma nel movimento però scoppia un'altra grana. Jonathan Ciappi, candidato in Sicilia e poi risultato condannato, viene espulso dai 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi vertice governo sindacati sull'età pensionabile. Il principio dell'adeguamento automatico dell'età pensionabile alle aspettative di vita non si tocca, ma un tavolo tecnico tra governo e sindacati studierà la possibilità di ampliare la platea dei lavori usuranti da svincolare dal meccanismo. Questa è l'intesa raggiunta tra governo e sindacati nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi. Le parti, spiega il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, discuteranno anche di eventuali miglioramenti del meccanismo. Abbiamo anche concordato che sì, in questo tavolo tecnico si considererà la possibilità di modificare e migliorare i meccanismi che attualmente determinano la cadenza dell'adeguamento dell'età pensionabile, sotto il vincolo che eventuali modifiche di questi meccanismi non intacchino la sostenibilità del sistema previdenziale, che come sapete è un pilastro fondamentale della sostenibilità finanziaria del nostro paese. CGIL e CISL e UIL attendono il prossimo incontro, in calendario il 13 novembre, per verificare se c'è davvero la disponibilità del governo a cambiare i meccanismi dell'età pensionabile e avere risposte anche su pensioni per le donne e i giovani. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Via libera del Consiglio dei Ministri al Golden Power su TIM per tutelare la rete posseduta dal gruppo telefonico, considerato un asset strategico. Il governo, fa sapere Palazzo Chigi, ha deliberato di esercitare poteri speciali a seguito del cambiamento della governance legato al controllo della società da parte dei francesi di Vivendi. È stata la vigilanza della Banca d'Italia ad avere rilevato le criticità che connotavano Veneto Banca e Popolare di Vicenza, lo spiega in un'audizione in commissione d'inchiesta il responsabile della vigilanza di Banca Italia, Carmelo Barbagallo. Banca Italia è pronta a rendere conto del suo operato, aveva detto Ignazio Visco davanti alla platea della Giornata Mondiale del Risparmio. E il primo a farsi carico di questa incombenza è stato il responsabile della vigilanza, Carmelo Barbagallo, chiamato in audizione dalla commissione d'inchiesta parlamentare. Abbiamo fatto anche degli errori, non ci autoassolviamo, dice a deputati e senatori, ma l'intervento e le risposte sono improntati ad una difesa a tutto campo. È stata la vigilanza della Banca d'Italia ad avere rilevato le criticità che connotavano le banche venete, dice, sottolineando le responsabilità dei vertici. Le criticità emerse per le due banche venete sono riconducibili, in ultima istanza, all'inadeguatezza del loro governo societario e in tale ambito all'autoreferenzialità del management. Manager spiega che occultarono le informazioni agli ispettori. Infine le porte girevoli, ossia gli ex dipendenti di Palazzo Koch assunti dalla Popolare di Vicenza. La Banca d'Italia non incoraggia né auspica che propri dipendenti siano assunti dai soggetti vigilati. In ogni caso, anche quando questo accade, ciò non influisce, né per quanto a mia conoscenza ha mai influito sul corretto espletamento delle funzioni di vigilanza, che se ne dica. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo negli Stati Uniti. It's my pleasure and my honor to announce my nomination of Jerome Powell to be the next chairman of the Federal Reserve. Congratulations, Jane. Eccolo qua, allora il presidente americano Trump ha nominato Jerome Powell alla guida della Fed al posto di Janet Yellen. Powell è forte, intelligente e talentuoso, dice Trump, ha la leadership per guidare la nostra economia in ogni eventuale sfida. E siamo invece alle indagini sull'attentato di New York. Donald Trump evoca per il killer la pena capitale. Estraneo all'attentato, molto probabilmente il secondo uzbeko fermato. Per Donald Trump, l'autore dell'attentato di New York merita la pena di morte. Il terrorista era soddisfatto e ha chiesto che la bandiera dell'ISIS fosse appesa nella sua camera d'ospedale. Ha ucciso 8 persone e ne ha ferite altre 12. Dovrebbe essere condannato a morte, si legge nel tweet del presidente degli Stati Uniti. Trump aveva già evocato l'ipotesi di inviare Saifullo Saipov, l'uzbeko di 29 anni responsabile della strage di Halloween, nel carcere di Guantanamo, penitenziario americano di massima sicurezza nell'isola di Cuba. Intanto il presunto complice di Saipov, Muka Mazoir Kadyrov, il 32enne uzbeko ricercato e poi rintracciato dall'FBI, a quanto riferito da fonti investigative, potrebbe in realtà non avere avuto alcun ruolo nell'attentato di Halloween. Ed è una maratona di New York blindata, quella che si correrà domenica. La polizia, oltre a più agenti, schiererà un maggior numero di cecchini sui tetti e ci saranno camion pieni di sabbia e barriere per evitare attacchi con l'uso di veicoli. La gara, alla quale è prevista la partecipazione di 51.000 concorrenti e 2 milioni e mezzo di spettatori, sarà seguita dall'alto con gli elicotteri. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo scandalo molestie sessuali in Gran Bretagna. Dopo le dimissioni di Michael Fallon, il nuovo ministro della difesa è Gavin Williamson. Ma secondo i media britannici scricchiola anche la poltrona del numero due del governo britannico, Damian Green, dopo le accuse arrivate da una 31enne attivista Tory. Siamo ora alla cronaca italiana. Incastrato da un video di una paziente, è stato arrestato a Palermo un noto ginecologo. Sospeso dalla direzione aziendale di Villa Sofia Cervello, Biagio Adile, 65 anni, direttore del reparto di uroginecologia, ai domiciliari con l'accusa di avere violentato una 28enne tunisina nel corso di due visite ginecologiche. Affetta da una patologia che l'aveva costretta a 13 interventi chirurgici nel suo paese, su Adile la donna riponeva tante speranze. Per questo aveva prenotato la visita nel suo studio privato, lì dove invece delle cure è avvenuta purtroppo la prima violenza. Era il dicembre del 2016 ed il medico le aveva poi consigliato di fare anche un'ecografia gratuita presso un suo amico che lavorava in ospedale. La tunisina questa volta si è premunita, sospettando che si sarebbero potuti ripetere gli abusi, ha portato il cellulare e ripreso la seconda violenza. Audio inequivocabili quelli ascoltati dagli inquirenti, con tanto di minacce del medico. Tu devi fare così, dice, aggiungendo: anzi, devi ringraziare che ti ho fatto l'intervento. Senza di me che facevi? Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La polizia ha sentito le 5 persone rimaste ferite nel crollo del controsoffitto avvenuto questa mattina all'ospedale di Siena. Dai primi accertamenti risulta che il cedimento sia avvenuto nel corso di un intervento di sostituzione nell'impianto di illuminazione, lavoro effettuato da un appaltatore esterno, si legge in una nota dell'azienda ospedaliera universitaria di Siena. Siamo al calcio. Europa League con Milan, Lazio e Atalanta impegnate oggi nella quarta giornata della fase a gironi. Giovanni Capuano, com'è andata e come sta andando? Beh, è andata con più ombre che luci. Per quanto riguarda le partite di Milan e Atalanta, sono usciti due pareggi, due risultati che non qualificano nessuna delle due squadre ai sedicesimi di finale, eppure le due italiane e anche la Lazio, che è in campo in questo momento ed è sullo 0-0, partita però iniziata da una decina di minuti, e tutte le italiane, dicevamo, questa sera giocavano per ottenere il pass con 180 minuti d'anticipo. Partiamo dal Milan, che è stato fermato sullo 0-0 ad Atene dall'AEK, partita brutta, quella dei rossoneri, che di fatto hanno giocato soltanto un quarto d'ora a inizio ripresa colpendo un palo con Montolivo, ma per il resto hanno molto sofferto il dinamismo della squadra ateniese che a questo punto è seconda in classifica. Milan che non si qualifica con due turni d'anticipo ma rimane comunque primo nel girone. L'Atalanta invece si era portata in vantaggio con Ilicic al 34esimo del primo tempo, gol su calcio di rigore, e ha subito il pareggio beffa in pieno tempo di recupero, pareggio segnato da Zelaya dell'Apollon Limassol. Atalanta che era qualificata fino a pochi secondi dalla fine della partita, ora resta prima nel girone insieme al Lione a quota 8 punti, l'Apollon è terzo a quota 3, manca davvero poco, ma questa sera si sarebbe potuto già festeggiare. Dicevamo della Lazio, 13esimo, 0-0 contro il Nizza, vincendo questa partita la Lazio si assicura il primo posto nel girone. A te. Vediamo allora come va a finire, il collegamento con te è fra pochissimo quando ci aggiornerai su questa partita. Noi ci fermiamo per qualche istante, Strade in diretta, poi torniamo insieme. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E queste sono le principali notizie di oggi, a cominciare dalla crisi catalana di cui peraltro parleremo fra pochissimo. Ordinata la detenzione provvisoria del vicepresidente Junqueras e di 7 ministri del governo catalano destituito. Il presidente Puigdemont resta in Belgio e contro di lui arriva un mandato d'arresto internazionale. Il governo legittimo della Catalogna è incarcerato per le sue idee, per essere stato fedele al mandato approvato dal Parlamento catalano, commenta Puigdemont. Migliaia di persone sono di nuovo in piazza. Il presidente americano Trump nomina Jerome Powell alla guida della Fed al posto di Janet Yellen. Powell è forte, intelligente e talentuoso, dice Trump. Ed è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma delle intercettazioni. Il premier Gentiloni assicura: non limitiamo l'uso delle intercettazioni, ma contrastiamo l'abuso. Verso il voto di domenica in Sicilia, Silvio Berlusconi a cena a Catania con il leader della Lega Matteo Salvini e quella di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Intanto il 5 Stelle Di Maio invita Renzi ad un incontro TV dopo le elezioni. Renzi accetta la sfida e dà appuntamento per martedì 7 novembre. Si dicono disponibili ad accogliere la sfida sia la RAI che la 7. L'incontro governo-sindacati sulle pensioni. I sindacati chiedono il blocco dell'automatismo sull'aumento dell'età pensionabile. Il governo si dice disposto a parlarne per i lavori usuranti in un tavolo tecnico il 13 novembre, ma senza intaccare la sostenibilità del sistema previdenziale. E poi, l'abbiamo sentito poco fa, c'è il calcio con la serata di Europa League. EK Atene Milan è finita 0-0, Apollon Atalanta 1-1, ora sono in campo Lazio e Nizza. E dunque cominciamo con i nostri approfondimenti e cominciamo proprio dalla Spagna che in queste ore è tornata di nuovo in piazza. Per Giorgio Sandri, giornalista dell'Avanguardia, ben tornato ad Effetto Notte. Ciao, buonasera. Buonasera Pier Giorgio. Allora, partiamo da questa nuova manifestazione di piazza. In realtà oggi sono state di diverse di manifestazioni, domani ce ne saranno altre. Un popolo in piazza che continua ad aumentare, la tensione non si allenta, tutt'altro. No, tutt'altro, la situazione è ingarbugliata. Il popolo, come avete detto, il popolo indipendentista è sceso in piazza non solo a Barcellona ma anche in altre città della Catalogna. Però ecco, bisogna anche dire che il popolo unionista, che se non altro è grande come quello indipendentista, non credo che stia festeggiando, perché comunque abbiamo una regione commissariata e un governo eletto democraticamente che, seppur ha commesso delle presunte illegalità, è stato incarcerato. Quindi comunque la situazione anche a livello sociale è piuttosto tesa. Certo, c'è una Spagna spaccata, possiamo assolutamente dire che c'è una Spagna spaccata. Sì, sì, sì. Ecco. Sì, sì, sì. A proposito di illegalità, il governo catalano ancora questa sera, con le parole di Puigdemont, dice che insomma è illegale quanto sta accadendo con la svolta di oggi, no? Oggi è arrivata la decisione del giudice dell'Audiencia Nacional, spero si dica così, che ha confermato la richiesta della procura, quindi insomma il governo catalano finisce sostanzialmente in manette. Sì, allora che cosa ha detto il giudice? Diciamo, il giudice sostanzialmente, senza entrare nel merito della questione, sostiene che i ministri e il governo catalano c'era un rischio concreto di fuga, e questo è anche dimostrabile dal fatto che il presidente è ancora in Belgio, quindi il rischio effettivamente era più che tangibile, e crede anche che ci siano rischio di inquinamento delle prove, perché loro sono stati fino a poco tempo fa comunque lavorando negli uffici, e sostiene anche che Pier Giorgio, dove sei finito? Non ti sentiamo più? Tra un istante cercheremo di riacchiapparlo, perché deve essere caduta la linea. Stavamo appunto commentando la svolta di oggi, perché di svolta in effetti si è trattato, cioè è arrivata la decisione di confermare, di un giudice di Madrid, di confermare la richiesta della procura. Quindi Puigdemont resta intanto in Belgio e contro di lui arriva un mandato d'arresto internazionale. Il presidente decaduto della Catalogna non si è presentato infatti per gli interrogatori, e i magistrati hanno fatto scattare il provvedimento. Stessa misura per altri 4 membri del suo governo che si trovano con Puigdemont a Bruxelles. Quindi di fatto in manette per il momento cadrebbero soltanto le persone che sono rimaste in Catalogna. Con noi di nuovo Pier Giorgio Sandri. Pier Giorgio, è caduta la linea. Cosa ci stavi dicendo della svolta di oggi? Sì, appunto, sto spiegando che i motivi della detenzione sono essenzialmente 3. Rischio concreto di fuga, argomentato dal fatto che Puigdemont sta in Belgio, rischio anche di inquinamento delle prove, dal fatto anche loro erano stati fino a poco tempo fa negli uffici svolgendo funzioni esecutive, quindi c'era questa possibilità, e poi anche dal fatto, per ultimo, che nel corso dei mesi loro erano stati più volte avvisati dal Tribunale Costituzionale del rischio di violare la legge, quindi in un certo senso erano recidivi. Pier Giorgio, ti faccio però una domanda, perché per noi italiani è difficile capire una cosa, ma non sarebbe a questo punto, visto come stava evolvendo la situazione con Puigdemont che è andato all'estero non facendo proprio una bellissima figura, diciamo, perlomeno per noi osservatori dall'esterno, non sarebbe stato meglio a questo punto lasciare, allentare un po' la tensione, in questo modo invece con la mossa di oggi far diventare degli eroi, quasi dei martiri, queste persone, e quindi acuire ancora di più lo scontro? Sì, sì. Il problema è che, diciamo, a livello politico questo che è accaduto non aiuta a risolvere i problemi. È come gettare benzina sul fuoco. Però evidentemente... Non sembra una mossa molto furba, no? No, ma sì, ma diciamo che il magistrato agisce secondo, diciamo, legge, i suoi, certo, tempi e secondo la legge, e purtroppo i tempi della politica e i tempi del magistrato non necessariamente coincidono, quindi possiamo anche dire che la giustizia è imparziale, è magari politicizzata, ma non è che questi magistrati agiscono su direttive, certo, del governo, quindi, ma certo. Quindi in un certo senso loro evidentemente, c'è un processo in corso, si può discutere se le misure sono proporzionali o forse sono eccessive visto il caso, questo sì, se ne potrebbe anche parlare, però questo appunto è un discorso giuridico che poi ci penseranno gli avvocati. Assolutamente. A cercare di difenderli. Domani cosa succede? Di nuovo popolo catalano in piazza? Ma io so, più che del domani sono preoccupato dell'oggi. Per capire cosa succede fra un paio di mesi, quando ci saranno le elezioni, perché non è da immaginarci, da escludere uno scenario in cui, per esempio, i partiti indipendentisti candidano i membri del governo che sono in prigione. Questo potrebbe, per esempio, causare un effetto emotivo presso gli elettori molto importante, molto forte, che potrebbe cambiare anche le carte in gioco, perché se il mio capolista è un uomo incarcerato, questo evidentemente ha un effetto emotivo molto importante. Quindi, insomma, queste sono le ripercussioni a medio termine che sono interessanti e imprevedibili. Grazie a Pier Giorgio Sandri, giornalista dell'Avanguardia, che ci ha fatto un po' il punto su quanto sta accadendo in Catalogna. E noi, con un salto mortale, invece andiamo a Roma e ci colleghiamo con la nostra Marta Cagnola, che sta seguendo la Festa del Cinema di Roma per noi e ce la sta qui raccontando a Radio 24. Marta, buonasera. Buonasera Piera, eccoci qua, insomma, una quanti festa... bei film hai visto oggi? Allora, devo dirti che oggi è una delusione, ho provato una delusione perché volevo vedere questo Trouble No More, questo documentario dedicato agli anni della conversione da Renato Cristiano di Bob Dylan. Non tutti sanno che Bob Dylan ha avuto questo periodo di conversione tra gli anni, diciamo, 79 e 81. Sono andata a vederlo facendo una fila pazzesca, è un documentario di un'ora, ma in realtà è praticamente la riproposizione di un vecchissimo concerto, molto bello, è semplicemente intervallato dalle prestazioni attoriali di Michael Shannon, che interpreta il ruolo di un predicatore. Io avrei niente voluto sapere che. Un po' di più. Niente di che. Vabbè, quindi no, insomma quello non ce l'andiamo a vedere. Di quel periodo. No, quello non ce l'andiamo a vedere. Invece, a proposito di documentario, non so, ve l'ho detto, se dovete andare a vedere uno quando esce, assolutamente andate a vedere quello della Callas, perché quello era fondamentale. Ma un film sulla Callas, un documentario sulla Callas si va a vedere a prescindere, che sia sì, bello che sia brutto. Fantastico, fantastico. Io mi sono fatta 2 ore di pianti, era una cosa meravigliosa, perché Maria Callas, attraverso le sue interviste e le sue lettere, quindi per un'ora e mezza hai l'impressione di parlare direttamente con Maria. Uno sguardo molto privato, quindi, su di lei. Poi ci sono tanti racconti sportivi, e domattina alle 9 io sarò lì in prima fila, perché domattina c'è l'anteprima di un film che in realtà esce la prossima settimana, quindi tutti lo potranno vedere molto presto, Borg McEnroe. Quindi la grande storia della rivalità sportiva. Ecco. Allora, c'è stato un altro film in questi giorni molto bello, ispirato a una storia sportiva, quello sulla storia di Tonya Harding. Non so se vi ricordate, negli anni 90 questa pattinatrice sul ghiaccio americana che viene coinvolta nell'aggressione a una sua rivale, che viene presa a martellate a un ginocchio, Nancy Kerrigan. Un film bellissimo, perché c'è una prestazione incredibile della protagonista Margot Robbie, che davvero pattina come se fosse una campionessa. E qui domani dobbiamo vedere se Shia LaBeouf gioca a tennis come McEnroe. E poi domani sera ce lo racconti, Marta, così certo, ti ho inguaiato anche per domani sera. Ciao Marta. Ma sono felicissima. Grazie mille, ti lascio al tuo cinema. Noi ci fermiamo per ascoltare che tempo che farà nei prossimi giorni, e poi saremo qui ancora con Effetto Notte. State ascoltando un programma offerto da La Trap, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E cominciamo con il riepilogo delle principali notizie. La crisi catalana, ordinata la detenzione provvisoria del vicepresidente Junqueras e di 7 ministri del governo catalano destituito. Il presidente Puigdemont resta però in Belgio e contro di lui arriva un mandato d'arresto internazionale. E poi ancora migliaia di persone in piazza a Barcellona e nelle altre città catalane. Il presidente americano Trump nomina Jerome Powell alla guida della Fed al posto di Janet Yellen. Powell è forte, intelligente e talentuoso, dice Trump, ha la leadership per guidare la nostra economia in ogni eventuale sfida. Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma delle intercettazioni. Il premier Gentiloni assicura: non limitiamo l'uso delle intercettazioni, ma contrastiamo l'abuso. Via libera del Consiglio dei Ministri al Golden Power su TIM per tutelare la rete posseduta dal gruppo telefonico, considerata un asset strategico. Il governo, fa sapere Palazzo Chigi, ha deliberato di esercitare i poteri speciali a seguito del cambiamento della governance legato al controllo della società da parte dei francesi di Vivendi. E poi ancora, una giovane donna accusa di violenze sessuali il primario ginecologo palermitano Biagio Adile. La donna avrebbe subito un primo abuso nello studio privato del medico, e alla seconda visita, questa volta in ospedale, avrebbe registrato tutto con il cellulare. Infine il calcio, con la serata di Europa League, finisce 0-0 AEK Atene Milan, finisce 1-1 Apollon Atalanta. In questi minuti invece in campo Lazio-Nizza. E in questa terza parte di Effetto Notte torniamo invece a parlare delle elezioni in Sicilia, e lo facciamo con il corrispondente da Palermo del Sole 24 Ore, Nino Amadore. Buonasera Nino. Buonasera a tutti. Che si è seguito tutta questa campagna elettorale, che sta diventando come sempre scoppiettante, come è giusto che sia negli ultimi giorni. Allora, oggi i toni si sono un pochino alzati. Di Maio, che ha invitato Renzi ad un incontro TV dopo le elezioni, ha accusato con un tweet Matteo Renzi ha un accordo per spartirsi la Sicilia e l'Italia con Berlusconi. Pare peraltro questo incontro ci sarà, perché Renzi ha subito accettato, figuriamoci se Renzi non è contento di andare in televisione, diciamo, non è una cosa che gli riesce difficile. La Rai, la 7 se li stanno contendendo, vediamo. Insomma, queste accuse di Renzi e queste accuse di Di Maio, Nino? Ma guarda, parole che volano in campagna elettorale. Io penso di sì, cioè l'asse tra Renzi e Berlusconi in passato è stato anche abbastanza evidente, visibile. Negli ultimi interventi Berlusconi certo non è andato all'attacco nel PD, ma comunque ha proposto un altro tipo di disegno, un altro tipo alternativo sicuramente al PD. Quindi che dire, insomma, la politica è fatta anche di questo e le campagne elettorali. Certo. Elettorali. Ecco, insomma, oggi Berlusconi, a proposito insomma di Berlusconi, che tra l'altro in questi minuti sarebbe a cena, mi confermi? No, confermi? Ti confermo che la cena non è ancora iniziata. A Palermo, in Sicilia, anzi, sì, perché non sono a Palermo, sono a Catania, si mangia tardi, quindi insomma, ecco. Vedremo. Ma Berlusconi invece ha lanciato questo piano Marshall per la Sicilia, promettendo un bel po' di quattrini, 5-6 miliardi l'anno. Beh, il discorso è, diciamo, il piano Marshall, e poi mi dicono che insomma viene da un'idea del candidato di Musumeci, e ne hanno discusso l'altra sera nell'altra cena, che è quella che c'è stata a Palermo, insomma, ed è un'idea che è molto piaciuta, a Berlusconi, e oggi in questo intervento che ha fatto lì alle Ciminiere di Catania, che è un luogo che tra l'altro era stato inaugurato a suo tempo da Musumeci quando era presidente della provincia, lo ha recuperato, ristrutturato lui, e Archeologia Industriale, che è diventata un centro congressi. In questo intervento Berlusconi ha insistito su questo piano Marshall, sugli incentivi, il rientro, ha provato a parlare alla pancia degli elettori tradizionali di Forza Italia, insomma, poi ha snocciolato una serie di numeri sulle difficoltà reali che la Sicilia sta vivendo, ha rilanciato, diciamo, l'abolizione del bollo auto per la prima auto nelle famiglie, e poi ha promesso il taglio totale delle tasse per i siciliani emigrati che tornano, decidono di tornare che tornano, nell'isola, sì, insomma. Che tornano, questa è una cosa. E poi ha attaccato più il Movimento 5 Stelle. Una cosa ho notato, insomma, ascoltando e guardando anche le agenzie, che si fa sempre più insistente l'appello agli astensionisti, come saprete in Sicilia i sondaggi danno il livello di astensionismo al 55% quasi, quindi più della metà dei siciliani non andrebbe a votare. Berlusconi ha chiamato in causa, insomma, la platea, i militanti, e ha detto: diventate missionari di democrazia, andate a convincere la gente che bisogna andare a votare. Questo è, diciamo, evidentemente. Addirittura. Veniamo agli altri campi, perché vabbè, il centrosinistra pare tacere, no? Non mi sembra che in Sicilia siano arrivati dei grandi personaggi in questi giorni. Negli ultimi giorni no. Ecco, invece insomma, sul fronte 5 Stelle c'è qualche problema muccio, no? Con i candidati. Beh, c'è questa polemica su un candidato che ha avuto a suo tempo una condanna quando era militare nel tribunale militare per un mancato rientro, spiega Cancellieri, 2 mesi, insomma, che comunque è stato classificato messo tra gli impresentabili, insomma, 2 mesi, vabbè, insomma, è tutto da vedere. E poi c'è l'assessore indicato da Cancellieri, Cambiano, l'ex sindaco di Licata, che è rinviato a giudizio per abusivismo, insomma, diventa una cosa molto forte, che può creare qualche difficoltà. Ai 5 Stelle, diciamo che negli ultimi giorni forse ancora qualche altra sorpresa potrebbe anche esserci da una parte piuttosto che dall'altra, perché il tema degli impresentabili è stato una costante in Sicilia in questa campagna elettorale, quindi boh, insomma, vedremo. Domani c'è Beppe Grillo, e quindi aspettiamoci da Beppe Grillo qualche scoppiettio sicuramente, risposte come solo lui sa fare a Berlusconi, che oggi ha provato a legnarli in maniera forte, dicendo che sono degli incompetenti, che non sanno governare, che vogliono aumentare le tasse, che vogliono togliere dalle tasche degli italiani di soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, e domani ci sarà la risposta di Grillo. Esatto. Nino, grazie mille e grazie, ti lascio voi al tuo lavoro, perché appunto devi seguire questa famosa cena che ancora non è cominciata. Berlusconi, ma è una registrata, è in questi minuti su Canale 5 che parla, poi magari ne sentiremo anche un pezzettino insieme. Grazie a Nino Amadore, corrispondente da Palermo del Sole 24 Ore. Buonasera. Voltiamo pagina, ma prima voglio ricordarvi il viaggio di Radio 24 verso le elezioni siciliane ogni giorno nel GR delle 7. Trovate tutte le puntate già andate in onda sul nostro sito radio24.it. Piroetta per andare in Gran Bretagna e parlare dello scandalo molestie sessuali. Giorgia Scaturro, buonasera. Buonasera Piera e a tutti gli ascoltatori. La nostra Giorgia, sì, da Londra. Bene. Dopo le dimissioni di Michael Fallon, il nuovo ministro della difesa è Gavin Williamson, quindi c'è già un nome. Secondo i media britannici però scricchiola anche la poltrona del numero 2 del governo britannico, Damian Green, dopo le accuse arrivate dalla 31enne attivista Tory. Giorgia, sono giornate in cui la May ha un po' da fare. Diciamo di sì, è da un po' di tempo che la May ha un po' da fare, ma questa nuova tegola, diciamo, ha fatto un po' scandalizzare per tanti motivi un po' tutti qui. Come dicevi prima, la nomina del nuovo ministro della difesa, Gavin Williamson, 41 anni e pochissima esperienza, se non nessuna a livello ministeriale, ha placato un po' per un giorno queste ventate dello scandalo molestie. C'è stata per oggi un po' una tregua sulla fuoriuscita delle imbarazzanti rivelazioni che delle condotte all'interno di Westminster. Però diciamo in Gran Bretagna comunque resta la tensione per questa dipartita di Michael Fallon, il braccio destro del primo ministro, che si è dimesso per aver toccato un ginocchio a una giornalista 15 anni fa. Probabilmente questo però prima che venisse fuori qualcosa di ancora più serio. Diciamo che queste dimissioni hanno messo l'asticella della vergogna a un livello molto basso per la condotta dei membri di Westminster. Ora toccare il ginocchio costa la carriera. E lo stesso Damian Green, che ancora è sotto inchiesta perché anche lui avrebbe toccato un ginocchio ad una attivista conservatrice in un pub 2 anni fa. Staremo a vedere che cosa succederà. Si può permettere la Premier May di perdere un altro pezzo grosso del suo governo come Green? La May è in una posizione di estrema vulnerabilità. Il problema che ha in questo momento è che qualora si trovasse anche a dover fare un rimpasto di governo, così come ventilato già nei giorni scorsi, sarà difficile per lei trovare dei politici integerrimi che possano portare una nuova ventata di purezza sui banchi di Westminster. Ricordiamo che questo dossier sporco ha 40 deputati già definiti ad alta libido, di cui molti sono conservatori, 8 addirittura sono ex ministri. Quindi pensare di poter anche lì ricreare un governo qualora tutti gli uomini a lei più vicini, già 2, uno è andato e l'altro nell'occhio del ciclone, sarà un pochino difficile. Peraltro, insomma, no? Un primo ministro donna alle prese con uno scandalo relativo a molestie sessuali è, non so, forse anche particolarmente imbarazzante. Grazie a Giorgia Scaturro da Londra, grazie, ci risentiremo in questi giorni, temo, per sentire di qualche altra testa che cade. Grazie Giorgia. Arrivo a vedere, grazie a voi. E noi ci fermiamo per sentire come sta andando sulle strade, poi l'ultimo blocco di Effetto Notte. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ordinata la detenzione provvisoria del vicepresidente catalano Junqueras e di 7 ministri del governo catalano destituito, il presidente Puigdemont resta in Belgio e contro di lui arriva un mandato d'arresto internazionale. Il governo legittimo della Catalogna è incarcerato per le sue idee, commenta Puigdemont. Migliaia di persone sono tornate in piazza. Il presidente americano Trump nomina Jerome Powell alla guida della Fed al posto di Janet Yellen. Powell è forte, intelligente e talentuoso, dice Trump. Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma delle intercettazioni. Il Premier Gentiloni assicura: non limitiamo l'uso delle intercettazioni, ma contrastiamo l'abuso. L'abbiamo sentito, verso il voto di domenica in Sicilia non è ancora cominciata la cena di Silvio Berlusconi a Catania con il leader della Lega Nord Matteo Salvini e quella di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Intanto il 5 Stelle Di Maio invita Renzi ad un incontro TV dopo le elezioni. Renzi accetta la sfida naturalmente, da appuntamento al 7 novembre. La RAI propone uno spazio dopo il TG1, ma si fa avanti anche la 7. E poi abbiamo parlato dell'incontro governo-sindacati sulle pensioni, perché i sindacati chiedono il blocco dell'automatismo sull'aumento dell'età pensionabile. Il governo si dice disposto a parlarne, ma solo per i lavori usuranti, in un tavolo tecnico il 13 novembre. Il tavolo tecnico non ferma l'iniziativa del sindacato, fa sapere la leader della CGIL, Susanna Camusso. E poi il calcio, fra un po' vi diremo come sta andando Lazio-Nizza, che si gioca in questi minuti. Invece sono già arrivati i verdetti per AEK Atene-Milan 0-0, Apollon-Atalanta 1-1. È un disco Durium inciso da te, da Fedele, non ce l'hai nemmeno detto forse, no, più. No? Ma guarda che c'è una cosa fantastica che leggo lì in basso, e che è il 1959, è del 59, cioè la data, sì, è un po' lontana. Allora, questa è la chiacchierata su Canale 5 fra Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi. Buonasera alla nostra commentatrice politica Elisabetta Fiorito. Buonasera Piera, buonasera ai radioascoltatori. Allora, cosa sta dicendo? Non lo so, perché è appena iniziato a parlare. Te lo dico io. Allora, è una sorta un po' di Amarcord, no? C'è, cioè, questo studio dove Maurizio Costanzo ha fatto vedere le foto del papà di Silvio Berlusconi e della mamma quando si sono sposati, di lui che aveva 11 anni, e Silvio Berlusconi ha detto che vendeva il Caglio e questo sfamava la sua famiglia durante la guerra. Poi si è ripercorso la carriera giovanile di intrattenitori sulle navi da crociera, però poi il padre ha detto: devi ritornare a studiare perché lì è la tua carriera. Ecco, insomma, questo. Quindi gli esordi di Silvio poi Berlusconi. I salesiani, il fatto che appunto lì ha conosciuto Fedele Confalonieri, insomma veramente una sorta di Amarcord in questo momento su Canale 5. Del resto, insomma, due persone non giovanissime che se la raccontano su un po' sul loro passato, no? Sì, se la cantano e se la suonano, si direbbe a Roma, però quello che invece è successo a livello politico non è questo siparietto con Maurizio Costanzo, ma è stato il discorso che ha fatto Berlusconi in Sicilia. Un discorso politico, è andato giù, ha fatto un comizio a Catania. In sì, ne abbiamo parlato poco fa con Nino Amadore, abbiamo raccontato un po' del piano Marshall che ha proposto per la Sicilia, per il ponte sullo stretto. Con te in particolare volevamo capire, non è ancora iniziata la cena di Catania, Catania si cena tardi. No, non è ancora iniziata, ha detto Salvini. Però si fanno prove di intesa per quello che deve accadere poi al di là del voto siciliano. Beh, insomma, lui ha anche detto, appunto, intanto attaccate i 5 Stelle, e questo è un aspetto nazionale, no? Perché dice: perché voi siciliani volete far governare i 5 Stelle, ma anche a livello nazionale. Poi l'altra cosa fondamentale che ha detto: noi sceglieremo delle persone della vita civile, no? Rispetto ai politici per fare i ministri, e questo vuol dire che è una sorta di asset che lui ha fatto a Salvini, perché Berlusconi stamattina aveva già dichiarato che era stato fatto il futuro governo, il futuro programma della coalizione di centrodestra. C'è stata una frenata da parte di Salvini dicendo: non parliamo di poltrone, ma parliamo di programmi, e anche la stessa Giorgia Meloni ha detto la stessa cosa. Adesso Salvini si fa un po' attendere, però ecco, Berlusconi ha subito deviato e ha cominciato a dire sì, cioè parliamo, certo, di persone della Betta, approfitto della tua, come dire, conoscenza delle questioni politiche. Oggi è una giornata importante anche per quanto riguarda la riforma delle intercettazioni. Ne abbiamo già parlato nella prima parte di Effetto Notte, spiegando un po' cosa contiene questa riforma. Forza Italia dice che parla di una riforma semplicemente ridicola, invece sono abbastanza soddisfatti i magistrati dell'Associazione Nazionale Magistrati, chi non è contento per niente, il Movimento 5 Stelle che parla di bavaglio del governo proprio per mantenere il potere. Di Maio in particolare dice che questa riforma è la prova del patto del PD con Berlusconi. Com'è questa riforma? Ma Gentiloni ha detto che non c'è nessun bavaglio. La riforma sostanzialmente vuole evitare il gossip, quelle famose battute anche che non sono rilevanti dal punto di vista penale, che però magari hanno stuzzicano un po' la pruderie. Sì, no? Un freno per noi giornalisti che ci divertiamo. Quindi, però, dice allora facciamo questi riassuntini. È vero, però ricordiamoci quelle intercettazioni in cui venne fuori la terra di mezzo, che sembrava un gossip, no? Perché noi stiamo in mezzo, eccetera. In realtà poi non era così rilevante, cioè nel senso che il reato era sicuramente che Buzzi e Carminati mangiavano sui fondi per le persone migranti o quello che è. Ma il problema era anche il linguaggio, secondo me, lì era rilevante. Per cui bisogna sempre stare attenti, perché quando si dice nessun bavaglio alla stampa, tu sei preoccupata, leggo un po' di preoccupazione nelle tue parole. Ma i brani essenziali, poi certe volte però anche il contorno diventa anche essenziale. Ecco, ti lascio alla tua serata e grazie per questo punto politico. Torno a vedere Silvio Berlusconi su Canale 5, Piera. Assolutamente, ciao. Ciao, ciao Betta, a domani. E noi cambiamo decisamente argomento, perché per porre un freno, torniamo in America per qualche istante, perché per porre un freno al turismo sessuale con minori, d'ora in poi i pedofili americani saranno identificati come tali anche sul passaporto. Il Dipartimento di Stato fa sapere che questa sorta di bollino non impedirà di viaggiare all'estero. Dunque un bollino sul passaporto per i pedofili. Yasmin Abo Loa, segretario generale ECPAT Italia Onlus. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Può essere utile contro il turismo sessuale, sul quale voi peraltro lavorate, un bollino blu sul blu o verde, quello che sarà, sul passaporto? Assolutamente sì, è sicuramente l'inizio di un percorso, diciamo così, anche di prevenzione per un certo senso, perché sicuramente il fatto di sapere che su un passaporto, che in un modo o nell'altro è poi il documento fondamentale attraverso il quale un qualsiasi cittadino del mondo, cioè, si ritrova poi in un altro paese a doverlo esibire, sicuramente crea una serie di problemi, e quindi questo sicuramente creerà dei problemi proprio a chi abitualmente commette questo genere di reato. Quindi potrebbe essere un buon freno per assolutamente chi opera appunto il turismo sessuale. Può essere un'idea applicabile anche all'Italia? Ma sicuramente si potrebbe anche fare. La cosa è questa, parliamo sempre di persone, di soggetti che poi si sposteranno per andare all'estero, quindi insomma dovremmo parlare anche dell'utilizzo del passaporto in sé. Se pensiamo a tutta l'area Schengen, non c'è bisogno per esempio per noi di girare con il passaporto, quindi bisognerebbe capire se la stessa disponibilità di mettere questa condanna su un passaporto ha senso metterla su una carta d'identità. Oggi non dimentichiamo che si fanno i carichi pendenti per il passaporto, non per la carta d'identità, che è lo strumento che invece possediamo tutti. Quindi diciamo, questo si dovrebbe trovare una quadratura del cerchio in questo senso qui, però sicuramente è auspicabile, diciamo così, una misura simile. Grazie a Yasmin Abo Loa, segretario generale ECPAT Italia Onlus. Giovanni Capuano, concludiamo con te, dici come sta andando la partita. Eccomi, finale di primo tempo all'Olimpico, 0-0 tra Lazio e Nizza, partita con poche emozioni. La Lazio sta controllando, gioca col freno a mano tirato, Lazio che ricordiamo sta dominando il suo girone, quindi questa sera con la vittoria sarebbe certa del primo posto, ma anche il pareggio andrebbe benissimo in chiave di qualificazione. Non ci sono state grandi occasioni, dunque Lazio 0, Nizza 0, siamo nel riposo, tra pochi minuti il via al secondo tempo. Grazie a Giovanni Capuano, grazie in redazione a Cristian Goldoni, in regia Valeria Bernardi. Si conclude qui Effetto Notte, vi saluto, un saluto da Maria Piera Ceci, sarò con voi anche domani sera, poi lunedì tornerà la vostra Roberta Giordano, ci ritroviamo fra pochi istanti per i titoli.